sono il campanello. Rispondo, sì, chi è? Ah, ci siete. Non gli ho detto niente, tu entra, poi io ti parlo. Non sai che poi sei andato a passeggiare. Te ne rendi conto? Mi chiami, ti rispondo, sì, chi è? E tu già ci siete. E cazzo, chi è che stai parlando? E io cosa ti ho detto? Sei a casa, ero in campagna. Io per carità, quanto mi hai detto che ci siamo sentiti, io adesso mi devo fare una scappatina per dare un passaggio a una persona. E dove devo venire io per portarti quell'alimentatore? A casa, sai dove sono, sì. E da vado a basso. Sì, praticamente, io adesso alle 3:15 lo accompagno, poi ti faccio uno squillo quando sono giù e tu scendi. Via, va bene, d'accordo. Tra un po' parto, sempre che il giovane non se ne vada in tram, perché qualche volta si prende il tram. C'è la macchina in officina, no? E ho bruciato come siamo nella testata, è disperato. Come mai disperato? Perché la testata non va bene più quella che c'è, perché è stata già spianata 2 volte ed è al limite, c'è una soffiatura. Mi ha recuperato un'altra ed è praticamente... non ce ne sono queste testate, almeno non prendi l'uovo. Ma l'uovo costa 350 euro, perché te l'hanno tutta completa, no? Già fatta. E una vecchia bisognerebbe ripristinarla, nel senso che bisogna portarla a revisionarla, deve togliere il valore, smerigliarla, e c'è un lavoraccio. E però anche questo può messa male, non se ne trovano le... è costretto a mettere questa occasionale, perché adesso non ce n'è, sennò la macchina gli serve per lavorare. Beh, ma quando mai non c'è una macchina da cosa ti consigliata a voi, che costa di meno, la prende tutta intera, ne smonta tutto il motore e c'è la di riserva, no? Sta che il pezzo che gli serve adesso se lo conserva. Sì, quello è giusto, ma il motore ne hanno uno, però non è sicuro se è buono. La testata non te l'hanno, c'è tutto il motore completo. A questo punto qua non si sa, perché lì è scatola chiusa. Sì, il motore non è tutto completo, poi trovo la testata ed è come quello che ho io. A scatola chiusa non si comprano queste cose. Noi gli abbiamo detto, ma tu fai una cosa, smonta la testata. E dice, ma poi se smonto la testata e non è buona, tu non lo vuoi, il lavoro me lo paga. Cazzo, sono incasinati questi sfasci carrozze. Ah beh, ecco, insomma, però che non vanno in un privato, che c'è magari qualche macchina incidentata, allora sì che va bene la cosa. Quando c'è una macchina conviene sempre trovare qualcuno che abbia un incidente stradale, recuperi il motore e che la macchina sia di pochi chilometri, capito? In modo che c'è la riserva, succede qualche cosa, non fai per cambiare, togliere quel motore e ci metti il nuovo, che per prima, è inutile cambiare la testata. Però c'hai un motore nuovo e può circolare da tanti anni. Beh, questo era già certo, non lo si va bene. Però come si fa tu a trovarti una macchina incidentata? Chi, dov'è? Prima di tutto. E dove la trovi? Ecco. Allora l'unica è lo sfasci carrozza. Ma lo sfasci carrozza però, nel momento in cui tu gli parli, lui ti dice che non è sicuro, che quel motore è buono, perché comunque la macchina ha avuto un incidente, e non si fede neanche lui, eccetera, quindi a questo punto rimane in bilico. E allora si tratta solo di aspettare se c'è qualche occasione. E quindi infatti stiamo aspettando. Quando vuoi risparmiare purtroppo capita così. E se non sei in pratica che capisci pigliare, e così la scatola chiusa, a volte magari capita, se fortunato il motore nuovo e quindi lo piatto si è a posto, invece magari capita che quello è il motore magari mezzo grippato, lo piatto sopra si è bruttito. Appunto, perché il motore che c'è lui c'è 80.000 km, ancora è buono, è un appunto del 94, non è che sia vecchia, è delle penultime diciamo, e funziona, non ha moltissimi chilometri. Se tu ne togli quel motore, ne metti un altro, e dopo brucia come se una testata si è buttata a capo eccetera, e cioè poi viene aspettare che trovi un'occasione, purtroppo è a piedi, capo lo devo accompagnare da una parte dell'altra, ed è un casotto, proprio quella zona devo salire. Capito, capita così. Trovare una persona che sia di fiducia, dice guarda il motore questo è nuovo così così, quindi le stacchi la cosa e prendi l'altra. Adesso mi cammino l'accompagno in via Roma, ad accompagnare mi sono vicino al fuoco e poi prosegue e ti faccio il posto, ci sentiamo tra una mezz'oretta diciamo, dai se faccio un tempo a tutte queste conclusioni, poi ti chiamo quando sono su, ti saluto, ciao ciao, dopo dai, già aspettate lo scudo tuo.